notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Posizioni ferme nell'incontro tra governo e presidenti di regione sull'immigrazione. Zaia incita i prefetti alla ribellione. Chiamparino, da Forza Italia e Lega, posizioni pregiudiziali. Anche il tema dei profughi sarà al centro del Consiglio europeo che prende il via questa sera insieme alla Grecia, sulla quale la trattativa prosegue. Nuovo documento ad Atene, si spera di chiudere in serata, mercati in attesa che oscillano, adesso sono positivi. Dopo le tensioni e la prima prova in Consiglio Comunale per Marino, si vota sulle Olimpiadi del 2024. Il sindaco resiste, non mi spostate da qua neanche a cannonate, dice in un'intervista, lettera di minacce. Scuola oggi si vota la fiducia con sindacati e associazioni di studenti ancora in piazza e protesta con fischietti di Sinistra, Ecologia e Libertà in aula. A Kobani, la città al confine turco-siriano, simbolo della resistenza all'ISIS, il califfato tenta il contrattacco, ma intanto i curdi avanzano e si preparerebbero alla conquista di Raqqa. Basket, si va a gara 7 per la finale. Sassari annulla il match point di Reggio Emilia con una partita infinita, 3 supplementari e 115 a 108. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it durante la diretta, il numero di sms è il 349-238-6666. Vi ricordo anche oggi in apertura che la settimana prossima Effetto Giorno, come altre trasmissioni di Radio 24, sarà in diretta dall'Expo, quindi se siete a Milano e se siete qua per l'Expo potete venirci a trovare, siamo nel padiglione di Federalismo Alimentare, Cibus e Italia, a pochi passi dall'ingresso Roserio. Vi aspettiamo. In apertura parliamo di Grecia e parliamo di questa trattativa che prosegue, a questo punto veramente estenuante. Facciamo il punto su come stanno le cose in questo preciso momento, perché è quello che effettivamente possiamo fare, con Livia Zancaner. Livia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, inizierà tra poco la nuova riunione dell'Eurogruppo sulla Grecia. Il vertice di ieri è stato sospeso perché le posizioni erano ancora troppo distanti, non vi era l'accordo su un testo. Dopo i lunghi incontri nella notte e anche questa mattina tra il premier greco Tsipras, i creditori, ovvero Fondo Monetario, BCE e Unione Europea, i dubbi comunque restano. Fonti di Atene dicono: la nostra proposta è stata accettata come base, la trattativa prosegue in Eurogruppo. Invece fonti europee fanno sapere che tra Grecia e creditori l'accordo non c'è, c'è un insieme di documenti che finiranno sul tavolo della riunione. Quindi diciamo così, è abbastanza evidente che un'intesa non ci sia, i punti della discordia sono sempre gli stessi. La proposta greca punta a raggiungere gli obiettivi di bilancio con nuove tasse, soprattutto su aziende, cittadini e ambienti. I creditori, Fondo Monetario in primis, vogliono invece tagli alla spesa, una stretta alle pensioni con l'allungamento dell'età pensionabile, maggiore aumento dell'IVA. Altro nodo ovviamente il debito, Tsipras vuole un impegno esplicito a rinegoziarlo, quindi vedremo poi se effettivamente emergeranno delle novità dall'Eurogruppo. Intanto i mercati, diciamo così, sono prudenti, l'Europa, come dicevi in apertura, è positiva. Milano addirittura guadagna l'1,28%, Parigi lo 0,48, Francoforte lo 0,73, Londra lo 0,01, spread in calo a 126 punti base. Per ora è tutto, a te Simone. E grazie Livia Zancanere. Sui mercati come sempre torneremo alle 13.30. Restiamo però sulla Grecia per cercare di analizzare la situazione, per capire se veramente siamo ad un passo dal punto di caduta, come si definisce, della trattativa, ossia ad una vera e propria soluzione dopo trattative che, come abbiamo detto in apertura, sono state veramente estenuanti. Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci siamo? Io penso che siamo vicini, questo è il momento classico dove si fa un tentativo di alzare la posta, e questo è stato il compito del Fondo Monetario, che ha fatto la voce dura, ha cercato appunto di rialzare la posta, ma penso che a nessuno dei due contraenti in questo momento abbiano intenzione di chiudere una partita o di sbattere la porta. Io penso che a questo punto sia veramente il momento della politica, dove anche il cancelliere tedesco Angela Merkel dovrà entrare definitivamente per sciogliere il nodo. Il nodo naturalmente è quello del debito. La parte greca chiede che ci sia almeno un impegno formale di una revisione di questa montagna del debito per poter tornare in patria e dire che effettivamente qualcosa è stato ottenuto, e quindi al di là delle misure di austerity che ancora ci sono sul piatto, c'è qualcosa qualcosa nell'orizzonte che possa far passare questo delicato piano, ricordo naturalmente nel Parlamento di Atene, ma anche nel Parlamento, nel Bundestag tedesco e altri tre Parlamenti europei. Sulla Grecia è tutto, a te, grazie, Simone. Grazie Vittorio Darolde, sì, perché poi ci sono quattro Parlamenti europei che dovranno votare su questo accordo, come abbiamo ricordato anche questa mattina nella nostra rubrica Europa 24, che se volete potete anche riascoltare sul nostro sito www.radio24.it. Per discutere anche di questo, si diceva, il Presidente del Consiglio Renzi approderà questo pomeriggio al Vertice Europeo, nel quale l'altro tema sarà l'immigrazione. L'appuntamento è stato preceduto da un vertice con sindaci e presidenti di regione che in sostanza non ha avuto nulla di risolutivo. Sentiamo gli interventi di due governatori di fronti opposti, Luca Zaia del Veneto e della Lega e Deborah Serracchiani del Friuli, del PD. Io sono estremamente convinto del fatto che i prefetti dovrebbero anche ascoltare il territorio del Veneto. Vi dico solo che su 579 comuni in Veneto solo 5 hanno dato una timida disponibilità. Il tema dei rimpatri è un vero tema, ne abbiamo parlato anche oggi, anche perché sostanzialmente con la quasi totalità dei paesi non ci sono neanche accordi. E rimpatriare un immigrato oggi è pressoché impossibile. Io credo che non ci sia spazio proprio per la demagogia. I numeri in Italia sono tali per cui non possiamo neppure definirla fino in fondo un'emergenza. Siamo consapevoli che è una situazione complessa, ognuno deve fare la propria parte e credo che i governatori devono mettere da parte la demagogia, mettere da parte i sondaggi, mettere da parte il consenso elettorale e cercare di impegnarsi a fare quello per cui sono stati eletti, cioè governare persone e cose. Così Zaia e Serracchiani. Zaia che già accennava a quello che è il tema dei rimpatri, sui quali tra l'altro è tornato ieri Renzi. Li si chiedono con forza da destra, lo stesso Premier dice che non possono essere un tabù, ma è tutto così semplice? Si fa presto a dire rimpatri, in realtà è un percorso a ostacoli. Ci sarà un motivo se oggi su 15.000 migranti espulsi nel 2014 siamo riusciti a rimpatriarne solo 5.000. Ma perché se un migrante è respinto non riusciamo a metterlo su un aereo? Primo ostacolo, per rimpatriare un migrante serve un accordo con il paese d'origine. L'Italia, ad esempio, ha un accordo con la Tunisia e infatti 50 charter sono partiti per Tunisi nel 2014. Tuttavia con altri paesi la questione non è così semplice. Non è un problema da poco se consideriamo ad esempio che nei primi sei mesi dell'anno dalla Somalia, che finora non ha voluto firmare intese, sono arrivati quasi 6.000 migranti. Ma d'ora in avanti gli accordi saranno siglati dall'Italia o interverrà l'Europa? Anche su questo il Consiglio europeo di oggi dovrebbe fare chiarezza. Secondo ostacolo, i rimpatri costano. A parte i costi per singolo migrante rimpatriato, circa 45.000 euro fra biglietto aereo e due agenti di scorta, ci sono le compensazioni che noi offriamo ai paesi d'origine perché accettino. Alla Tunisia, ad esempio, abbiamo pagato un'intera flotta di motovedette. Terzo ostacolo, in attesa di capire se il migrante è un migrante economico oppure un profugo, dovrebbe essere trattenuto nei CIE, centri di identificazione ed espulsione. Quando erano 1.800 e trattenevano i migranti fino a 180 giorni, si disse che erano carceri. Ora, sotto il nuovo nome di hotspot, si pensa a centri coercitivi che trattengono i migranti fino a 18 mesi. Ma ad alcune associazioni, questo sembra un modo per far rientrare dalla finestra quel che era uscito dalla porta. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tema dunque, come avete capito, che rimarrà al centro del dibattito, così come lo rimane la situazione politica a Roma, che si compone ancora una volta dai problemi della Giunta Marino. Questa mattina il voto per la candidatura della capitale alle Olimpiadi del 2024 e questa mattina anche l'arrivo di una lettera di minacce al sindaco di Roma. Alessandra Schepisi si trova in Campidoglio. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, e con un po' di ritardo, in un clima già piuttosto vivace, si è aperta poco fa l'assemblea capitolina che dovrà ufficializzare la discesa in campo di Roma delle Olimpiadi del 2024. Assente il sindaco Marino, un'assenza duramente contestata dall'opposizione che aveva anche chiesto di sospendere la seduta, ma spiegano dalla maggioranza il sindaco ha dovuto modificare la sua agenda per quanto accaduto ieri sera intorno alle 22.30 al centro di smistamento postale dell'aeroporto di Fiumicino è stato trovato un proiettile a lui destinata insieme ad una lettera contenente delle minacce, per questo che il sindaco non è ancora presente qui in aula. Ma per quanto riguarda il voto, su questo voto, come sappiamo, pesano le inchieste su Mafia Capitale, le incertezze della giunta Marino, ma il risultato non dovrebbe però essere a rischio, e sì, dovrebbero prevalere, anche se non nella misura auspicata inizialmente da Marino e dal comitato promotore, a meno di sorprese, favorevole tutta la maggioranza più gran parte del centrodestra, anche se qualcuno continua a puntare i piedi esigendo le scuse di Marino per quella famosa frase sulle fogne. Sveva Belvisa, infatti consigliere dell'altra destra, infatti lasciato l'aula poco fa, pronto al sì Forza Italia. Fratelli d'Italia invece presenterà una mozione, no voteranno il consigliere leghista e i 5 stelle, quindi una quarantina di voti favorevoli su 48. Marino ha comunque rivolto questa mattina di nuovo un appello a superare gli steccati ideologici, parlando di una sfida importante non solo per Roma ma per tutta l'Italia. E qui dal Campidoglio è tutto per ora. E grazie Alessandra Schepisi. Veniamo alla riforma della scuola, con il voto di fiducia che arriva oggi mentre le proteste proseguono. Iniziamo dal punto politico di questa giornata e poi andremo a sentire che cosa succede sulle piazze. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, parte con una contestazione la seduta al Senato. Il gruppo di Selle indossa magliette bianche con libertà di insegnamento e diritto allo studio, mentre usano fischietti contro il governo. Il Movimento 5 Stelle invece ha inscenato una sorta di funerale accendendo dei lumini votivi in memoria della scuola. Oggi dunque il voto di fiducia sulla riforma al Senato. Come già annunciato, il governo ha posto questa mattina la questione in aula tramite il ministro Mariano Boschi sul maxi emendamento presentato dai relatori Francesca Puglisi e del PD e Franco Conte di Area Popolare. Il testo è una sintesi degli oltre 2000 emendamenti presentati da tutte le forze parlamentari, comprese le opposizioni. La prima chiama a Palazzo Madama ci sarà alle 16, il voto prevedibilmente dopo un'ora. Nel disegno di legge, lo ricordiamo, l'assunzione di 100.000 precari per il prossimo anno, gli idonei al concorso a cattedra del 2012. Non mancano comunque le proteste, come hai annunciato te, all'alba le organizzazioni sindacali e l'Unione degli Studenti hanno organizzato un blitz al Ministero dell'Istruzione, ma tu poi ci riferirai più approfonditamente. Sì, a te, sì, Simone. Infatti abbiamo, grazie Elisabetta Fiorito, un servizio proprio sulle proteste che proseguono ormai da 2 giorni. Fuori da Palazzo Madama, organizzazioni sindacali e di studenti protestano da 2 giorni contro un provvedimento considerato una prepotenza contro il Parlamento e la scuola, per tutte e 32 le sigle sindacali associate nella protesta. A non convincere sono soprattutto i poteri concessi ai presidi e la valutazione dei docenti. Dubbi anche sul piano di assunzione di 100.000 insegnanti. Francesco Scrima, segretario di CISL Scuola. Questo provvedimento lascia a casa, lascia fuori, lascia senza lavoro decine di migliaia di lavoratori della scuola, che addirittura sono tutelati da una direttiva europea e da una sentenza della Corte di Giustizia europea. Mi riferisco ai cosiddetti docenti personale della seconda fascia. Per l'Unione degli Studenti, tra le associazioni più attive nelle proteste di questi giorni, nella riforma non esiste una visione sul diritto allo studio su cui non sarebbe investito un euro, ma soprattutto le scuole pubbliche sarebbero lasciate da sole dal punto di vista economico. Danilo Lampis, coordinatore dell'Unione degli Studenti. Si lasciano le scuole a se stesse, non c'è una previsione di investimenti in termini generali sul lungo periodo, pertanto servirà un dirigente che si trasforma in un procacciatore di investimenti privati. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero, innanzitutto con una notizia appena battuta dalle agenzie. Il premier russo Dmitry Medvedev ha deciso di estendere le contromisure ai danni dei paesi che hanno imposto le sanzioni contro Mosca fino al 2016, quello che riportano gli stessi media russi. Ha firmato un decreto governativo sui beni che saranno soggetti all'embargo delle importazioni fino al 5 agosto del prossimo anno. Questo l'annuncio di Medvedev. E adesso a Kobani, dove l'ISIS ha provato a contrattaccare. È ripresa la battaglia a Kobane, la città al confine tra Siria e Turchia, diventata il simbolo della resistenza dei curdi all'avanzata dell'ISIS e liberata nel gennaio scorso dopo 4 mesi di assedio. I jihadisti dello Stato Islamico sono riusciti a rientrare nel perimetro urbano. Secondo la BBC, che ha citato fonti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani, all'alba l'ISIS avrebbe riconquistato la città, causando anche numerose vittime. Per la TV di Stato siriana, i jihadisti sono penetrati dal confine turco, ma le autorità turche hanno smentito smentito questa versione sostenendo che i miliziani dell'ISIS sono partiti dalla città siriana di Jarabulus nella provincia di Aleppo. Nel frattempo Mustafa Bali, portavoce ufficiale dell'unità di difesa del popolo curdo, smentisce che Kobane sia in mano all'ISIS. La città è sotto il nostro saldo controllo, i terroristi hanno preso solo alcuni edifici in tre punti della città e nelle prossime ore li libereremo, ha detto. L'attacco dell'ISIS pare sia cominciato con l'uso di alcune autobombe che avrebbero provocato almeno 15 morti, anche se alcune fonti parlano di 25 vittime, oltre che di diversi feriti, almeno una sessantina, tra i quali numerose donne e bambini. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per un'analisi della situazione al confine turco-siriano ci collegheremo più avanti con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per fare un punto e cercare di capire effettivamente che cosa sta succedendo, anche perché, come già vi dicevamo nei titoli, i curdi starebbero muovendo in realtà verso la città di Raqqa e quindi sarebbe una sorta di reazione quella dell'ISIS a questa avanzata curda, con annesse preoccupazioni turche per questa avanzata curda. Ci torneremo tra poco, ma intanto ci occupiamo di sport. E ci occupiamo di basket, perché si va a gara 7 per la finale e ieri una partita, Dario Ricci, pazzesca, straordinaria, memorabile, epocale, insomma gli aggettivi metteteceli anche un po' voi, datemi una mano, perché quello che si è visto ieri a Sassari è stato davvero un grande spettacolo, un grande spot per il nostro campionato, per il nostro basket. 115-108 il successo di Sassari su Reggio Emilia dopo ben tre supplementari. Si va serie quindi sul tre pari, finora ha dominato sempre il fattore campo. E allora venerdì, domani alle 20:45 a Reggio Emilia, gara 7 che si preannuncia, banale dirlo, anch'essa combattutissima. Chissà se Reggio Emilia recupererà, probabilmente sì, Lavrinovic sotto canestro, giocatore fondamentale, ma insomma queste finali ci stanno regalando tanti protagonisti inaspettati. Mi piace sottolineare Amedeo Della Valle, 22 anni, figlio d'arte, 2 anni passati a Ohio State, faccia e piglio già da campione, che ieri ha piazzato 25 punti con 6 su 9 da 3. E poi anche i campioni però di Sassari, Dyson e Logan, su tutto i capaci di accendersi in pochi istanti e ribaltare una partita che sembrava avere un destino già scritto. Non sappiamo chi lo vincerà questo scudetto, sappiamo chi l'ha perso, Milano, che l'aveva sul petto, che era la grande favorita, che pochi istanti fa, pochi minuti fa, ha sancito il divorzio dal coach che l'aveva riportata dopo 18 stagioni al tricolore, cioè Luca Banchi. E grazie Dario Ricci per questo aggiornamento, per questo racconto della partita di basket di ieri. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo. Come si diceva, andremo a parlare di quello che sta succedendo a Kobane, poi ci occuperemo della vicenda di Sara Ammar. Forse ve la ricorderete, fu sequestrata dal padre egiziano che nel 2010 la portò al Cairo e da allora si era reso con la bambina irreperibile. Bene, Sara Ammar torna in Italia, lo ha annunciato oggi la Farnesina. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Immigrazione, dopo l'incontro con il governo, Zaia incita i prefetti alla ribellione. Camparino dice da Forza Italia e Lega posizioni pregiudiziali. Anche il tema dei profughi al centro del Consiglio europeo di questa sera, insieme alla Grecia, sulla quale la trattativa prosegue. Positivi i mercati, Milano guadagna l'1,11%. Poi tensioni, prima prova in Consiglio Comunale per Marino, si vota sulle Olimpiadi del 2024, lettera di minacce intanto al sindaco con scritto «Lascia stare gli abusivi». Scuola oggi si vota la fiducia con sindacati e associazioni di studenti ancora in piazza. A Kobane, la città al confine turco-siriano, simbolo della resistenza all'ISIS, il califfato tenta il contrattacco. Veniamo a una vicenda di cronaca. È tornata in Italia, tornerà in Italia la piccola Sara Ammar, sequestrata dal padre egiziano che nel 2010 l'aveva portata al Cairo. Da quel momento si era reso irreperibile con la bambina. Questi casi sono sempre più frequenti in Italia, le trattative per riportare a casa i minori possono essere molto difficili, spesso non bastano i tribunali. Lo spiega Liana Doro, avvocato specializzato in sottrazione internazionale di minori, al microfono di Valeria Grandi. Sono molto frequenti, perché ormai le coppie sono spesso miste. Se questi stranieri fanno parte dei paesi che hanno sottoscritto delle convenzioni, e la convenzione principale, la convenzione dell'AIA, se fanno parte di questi paesi, allora si possono, abbiamo degli strumenti noi come legali per poter riportare il bambino che è stato sottratto. Normalmente quando la coppia si disfa, il genitore, spesso la mamma, si ritorna al suo paese e si porta via il figlio, non credendo di fare una sottrazione per questo. L'Egitto non ha sottoscritto nessuna convenzione, nessun patto bilaterale, ed è per questo che in questo caso è intervenuto il Ministero degli Esteri, e quindi è un'operazione che viene svolta a questi livelli, non viene svolta da un avvocato che non ha la possibilità di mettere in atto nessuno strumento legale. E siamo adesso a tornare sulla sentenza della Consulta della Corte Costituzionale, quella sul blocco dei contratti per gli stipendi del pubblico impiego. No, mi dicono di no. Allora, non abbiamo ancora pronto in linea il sottosegretario Rughetti, abbiamo invece in linea Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che nella fattispecie insomma non è sul confine turco-siriano, ma è a Montecitorio, dove tra l'altro è in visita una delegazione dei curdi che combattono contro l'ISIS. Alberto, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Allora, caro Simone, io sono qui che sto parlando appunto col comandante Nasrin Abdullah, che è uno dei comandanti più importanti dell'esercito curdo Rojava, dei curdi siriani che stanno combattendo contro l'ISIS, e mi stava dando alcune informazioni sulla situazione che c'è adesso sul campo. Come avete visto, ci sono stati diversi attentati a Kobane oggi, e i miliziani del califfato sono stati detto. Dunque, sono entrati circa centinaia di miliziani dell'ISIS, una ventina sarebbero stati uccisi, ma sono ancora dentro. Oggi c'è stata l'esplosione di 4 autobombe, ma a quanto pare ci sono anche dei kamikaze con le cinture suicide, quindi la situazione in Kobane non è ancora in controllo, cioè le forze curde hanno reagito, ma i miliziani sono dentro e hanno potuto purtroppo lanciarsi nelle loro solite azioni anche contro i civili, ecco. In particolare verso, in un villaggio vicino a Kobane di Berbatan, dove sarebbe stata massacrata una famiglia. Ecco Alberto, quindi a differenza di quel che avevamo appreso questa mattina, non si tratta di un vero e proprio tentativo di riconquista, ossia di un assalto alla città di Kobane, ma di veri e propri attentati, per così dire. Quindi è una situazione anche militarmente diversa, no, da quella che era stata prospettata in mattinata. Sì, direi di sì, non si tratta di un attacco in grande stile, ma si tratta di un attacco che probabilmente ha forse anche uno scopo diversivo, cioè in qualche modo tenere sotto pressione a Kobane le forze curde, mentre stanno avanzando, come sappiamo, fino a 50-60 chilometri da Raqqa. Tra l'altro l'ingresso delle forze dei miliziani dell'ISIS, del califfato, è avvenuto attraverso un trucco, cioè sono travestiti da guerriglieri dell'esercito libero siriano, innalzando le bandiere dell'LS, che è alleato dei curdi siriani. Con questo camuffamento sono riusciti a entrare e quindi a provocare poi queste esplosioni e questi attentati. Tu parlavi, Alberto, dell'avanzata dei miliziani curdi verso la città di Raqqa, e quindi con un tentativo di riconquista di un territorio che al momento è nelle mani dell'ISIS. Questo è un elemento che tra l'altro sembra preoccupare molto la stessa Turchia. Ma non c'è dubbio. Tra l'altro, come sapete, ci sono state diverse voci anche del fatto che i jihadisti siano passati dal confine turco. La stessa comandante Nasrin Abdullah adesso mi diceva che loro non hanno per il momento ancora prove di questo passaggio dei miliziani dell'ISIS in questa occasione, però attraverso i droni dei RAID della coalizione internazionale hanno potuto in qualche modo individuare più di una volta che i jihadisti andavano dall'una e dall'altra parte del confine. Tieni presente che i turchi proprio sul confine stanno evacuando i villaggi. con l'obiettivo di difendere la popolazione civile, però che cosa succede? Succede che quella rimane una terra di nessuno, dove si possano infilare, dove si può infilare chiunque. Sono state molte le accuse rivolte alla Turchia, tant'è vero che oggi il capo della provincia di Sanurfa, turco ovviamente, ha smentito il fatto che i jihadisti siano passati dall'altra parte, ma la Turchia ha avuto sempre un atteggiamento molto ambiguo nei confronti della guerriglia curda, l'ha osteggiata, anzi lo stesso Erdogan più di una volta ha dichiarato: per noi il vero problema sono i curdi del PKK, non il califfato. Tenete presente appunto che i curdi siriani sono affiliati al PKK di Abdullah Öcalan. Grazie ad Alberto Negri, che è un inviato del Sole 24 Ore, che ci ha dato un quadro più chiaro di quello che sta succedendo al confine turco-siriano. Prima di andare a sentire, prima di fare una pausa, una notizia appena battuta alle agenzie e che arriva da Napoli, dove il tribunale ha accolto il ricorso del sindaco Luigi De Magistris contro la sospensione della carica disposta in base alla legge Severino, e quindi vuol dire che Luigi De Magistris resta in carica, una sentenza molto attesa, e chissà se farà giurisprudenza anche in merito alla vicenda di De Luca. Staremo a vedere che cosa succederà. Intanto ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo come sempre con la borsa, e poi, come già parzialmente annunciato per un collegamento che non siamo riusciti a fare, sentiremo il sottosegretario alla pubblica amministrazione Rughetti per parlare della sentenza della Corte Costituzionale arrivata ieri che riguarda il blocco degli stipendi del pubblico impiego, che ha detto insomma è un blocco illegittimo. Lo Stato però non deve restituire questi 4-5 anni di blocco che ci sono stati, e però per il futuro insomma deve tornare a ricontrattare gli adeguamenti all'inflazione. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sull'immigrazione posizioni ferme nell'incontro tra governo e presidenti di regione. Zaia incita i prefetti alla ribellione. Anche il tema dei profughi al centro del Consiglio europeo di questa sera, insieme alla Grecia, sulla quale la trattativa prosegue. Lettera di minacce al sindaco di Roma Ignazio Marino, che intanto resiste e dice: non mi spostate da qua neanche a cannonate, oggi il voto sulle Olimpiadi del 2024 in Consiglio Comunale. A Kobane, la città al confine turco-siriano, simbolo della resistenza all'ISIS, il califfato tenta una sorta di contrattacco, ma intanto i curdi avanzano, si preparerebbero alla conquista di Raqqa. La borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. È illegittima, ha sancito la Corte Costituzionale, come abbiamo anche ampiamente raccontato all'interno dei nostri giornali radio e non solo. È illegittimo il blocco della contrattazione collettiva per il pubblico impiego, il blocco degli adeguamenti all'inflazione. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dicendo però, attenzione, lo Stato non deve ripagare il passato, anche perché si sarebbe creato un buco da 35 miliardi di euro, e però appunto adesso bisogna ripartire, deve ripartire anche evidentemente un dialogo con i sindacati. Di questo vogliamo parlare con Angelo Rughetti, che è il sottosegretario alla pubblica amministrazione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, adesso dovrà Rughetti partire una trattativa evidentemente. Ma guardi, noi abbiamo sempre detto che la contrattazione era ferma perché non c'erano le condizioni economiche e finanziarie dei saldi di finanza pubblica per poterla iniziare, quindi non c'è, diciamo, un pregiudizio a non voler contrattare con il sindacato. Non c'erano le condizioni economiche, oggi la Corte ci ha detto che è necessario riavviare questa trattativa, quindi noi speriamo di poterla riavviare avendo delle condizioni di contesto migliori. Senta, dal punto di vista economico, di che cifre stiamo parlando, soprattutto con una proiezione per i prossimi anni? Guardi, questo se vogliamo essere delle persone serie è impossibile dirlo, perché lei sa meglio di me che quando ci si siede a un tavolo non si sa qual è l'esito di quel tavolo. Nel DEF è stata fatta una previsione che è 1,7 miliardi per l'anno 2016, che dovrebbe coprire l'inflazione programmata che era prevista all'1,5 e che invece sarà più bassa. Però diciamo, io prima di arrivare alle cifre vorrei parlare, vorrei leggere la sentenza prima di tutti e poi vorrei cominciare a parlare però di cosa ci aspettiamo dalla contrattazione. Le voglio fare una domanda che in questo caso riguarda il pubblico impiego, ma che è potenzialmente estensibile a tutto il resto, anche ai contratti di lavoro privato. Secondo lei il meccanismo dell'adeguamento all'inflazione, per come è fatto adesso, è un meccanismo ancora funzionale o rischia di creare problemi come quelli che abbiamo visto? Insomma, abbiamo visto la Corte Costituzionale sugli stipendi pubblici, abbiamo visto la sentenza sulle pensioni. Guardi, questa è una domanda che mi sto ponendo anch'io e ho posto anch'io nelle discussioni che abbiamo fatto, anche perché dobbiamo ricordarci da dove veniamo. Noi negli ultimi 35 anni abbiamo avuto una retribuzione media del lavoratore pubblico più alta di quello privato, mediamente del 30%, con delle punte in alcuni anni che sono arrivate al 35%. Allora, l'inflazione programmata normalmente serve per difendere il potere d'acquisto dei salari. Noi però abbiamo punti di salari pubblici che sono più alti di quelli privati, prima cosa. Seconda cosa, ha ancora senso dare, diciamo, un poco a tutti? Non so se valga ancora la pena mettere in bilancio degli oneri così pesanti che poi per ogni singolo dipendente pubblico vogliono dire pochissimi euro, e invece non guardiamo i cittadini e non guardiamo la pubblica amministrazione dal loro punto di vista e iniziamo invece ad investire su alcune tipologie di prestazioni, su alcune tipologie di servizio, e su queste tutti insieme, governo, istituzioni territoriali e sindacati, facciamo un investimento serio che ha degli effetti nelle buste paga dei dipendenti, ma soprattutto degli effetti in chi riceve servizi, cittadini ed imprese. Sì, ho visto che lei parla di aumenti non a pioggia ma mirati, intende anche per l'applicazione della sentenza della Corte, in sostanza? Intendo che nel momento in cui si dovesse riaprire il tavolo contrattuale, mi piacerebbe che insieme si individuassero delle priorità su cui investire, piuttosto che fare una ripartizione formale di risorse che ha pochi effetti sostanziali nella vita dei lavoratori e soprattutto in quella dei cittadini. Quindi puntare su una serie di servizi, dice lei, insomma, cioè sì, mettere i soldi là, in sostanza. Noi in questo momento il paese sta vivendo una fase complicata, cominciamo a vedere la luce alla fine del tunnel, ma alcune tipologie di servizi, i servizi sociali nei confronti delle famiglie, dei disabili, delle famiglie meno abbienti, tutto il rapporto tra pubblica amministrazione ed imprese, cioè facilitare l'apertura di un capannone, la possibilità di aprirne un altro, di allargarlo, tutte queste attività, tutti questi servizi hanno degli effetti reali nella vita quotidiana, su quelli mi piacerebbe investire, mi piacerebbe che il sindacato ci seguisse. Un'ultima domanda sui tempi di apertura di questa trattativa e anche della chiusura della medesima. Ci è sembrato di capire che dal governo arrivasse un'indicazione abbastanza chiara, almeno dalle indiscrezioni delle retroscene che abbiamo letto sui giornali, cioè prima si dà il via libera alla riforma della pubblica amministrazione e poi si ragiona su questo adeguamento. La riforma della pubblica amministrazione è in discussione in Parlamento ormai da più di un anno, quindi diciamo, ha un percorso maturo anche dal punto di vista politico. La riapertura del tavolo negoziale avverrà ovviamente dopo che abbiamo letto la sentenza della Corte, ma immagino che il momento topico sarà la legge di stabilità. Come se ne uscirà e quando se ne uscirà lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno. Sì, questa diciamo è una questione di massima, però l'idea di far passare prima la riforma della PA e poi andare sulla contrattazione c'è? Beh, la riforma della PA è un po', come dire, il binario sul quale poi i treni delle contrattazioni dovrebbero andare, quindi sarebbe buon senso arrivare prima con la riforma della pubblica amministrazione. Grazie Angelo Rughetti, sottosegretario alla pubblica amministrazione, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. E noi cambiamo decisamente argomento e parliamo del fatto che dopo 94 anni di onorata carriera chiude uno dei negozi storici di New York. Si chiama Louise Shury Builders ed è lo storico calzolaio al piano terra dell'Empire State Building. Ha aperto i battenti nel 1921, 10 anni prima che venisse inaugurato il grattacielo Art Deco, diventato il simbolo di New York. Da allora non è mai cambiato, diventando parte integrante dell'edificio che lo sovrasta. Ora però la società che gestisce l'Empire State Building, impegnata in un restauro da 550 milioni di dollari, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto all'attuale proprietario. proprietaria italo-americana Beatrice Barbieri, 82 anni. La donna paga un affitto da $7,000 al mese quando avrà lasciato lo spazio. Dicono gli esperti, il prezzo schizzerà a $25,000. In segno di protesta, gli attivisti di Save New York City, impegnati nella difesa degli esercizi storici della città che rischiano di chiudere, hanno organizzato un finto funerale fuori dal negozio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico.